Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave. Sappiamo, ogni mercoledì abbiamo il live, cioè la gente che viene a suonare da noi, e stasera io sono molto contento, sono molto soddisfatto di ospitare Fata. Buonasera Fata. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Avete fatto un buon viaggio da Carpi? Non male, non avete trovato traffico, no? Nebbia fino a Nogarole Rocca. Ah, nebbia, quella purtroppo in questo periodo c'è sempre. Bene, i Fata io li conoscevo già da tempo, cioè almeno 2 anni fa, perché avevo sentito l'album precedente, che si intitola l'album precedente? La percezione del nero. Ecco, la percezione del nero. Adesso però sono passati 2 anni, ci sono stati dei cambiamenti anche musicali chiaramente, e siamo arrivati all'album nuovo che esce ieri, cioè è uscito ieri o è uscito venerdì. Perfetto, allora, abbiamo in anteprima, eccolo qua, bello nuovo, il pallino. Noi abbiamo anche il discografico stasera, dobbiamo dirlo, ce l'ha portato proprio di sana pianta. L'idea, questi 2 anni, l'idea di fare un nuovo album, come si è sviluppata, Roberto, che mi sei qua a fianco? Ma l'idea c'è sempre stata e spero che ci sarà sempre, di fare album nuovi. La percezione del nero, diciamo che è una raccolta di diversi anni di canzoni, dal cambio di chitarrista, da quando Federico è entrato nella nostra formazione abbiamo iniziato a comporre cose nuove, e la percezione del nero è la raccolta di tutte queste cose, quindi racchiude un periodo di tempo molto ampio. Diviso 2 ha avuto un processo diverso, è diventata un'esigenza anche personale di affrontare un momento particolare della vita, e è nato questo disco nuovissimo. Visto che ci siamo, Roberto, presentiamo gli altri componenti della band. Allora, abbiamo Milo, batteria elettronica, batteria, molto bella. Questa sera elettronica, versione elettroacustica, batteria elettronica. Abbiamo Brando alle tastiere, abbiamo Federico alla chitarra, il nostro discografico manager, producer, manager factotum Francesco. Bellissimo. E poi salutiamo il membro mancante che è Davide, che è a casa. Bene, lo salutiamo, quindi sicuramente si sta sentendo e anche si sta vedendo. Soprattutto c'è la webcam accesa, si sta vedendo, grazie a Roberto Baldi che ha sistemato le cose. Ringraziamo in regia Michele Tosone, che è il nostro grande conduttore che porta avanti il programma. Ringraziamo Alberto Pisco, che è il nostro organizzatore. E andiamo e parliamo dei Fata, parliamo di questo nuovo disco, di questa fatica per fare questo nuovo album. Oddio, fatica. Fatica bella, una bella fatica. Sì, beh, nel senso che è stata, devo dire, abbastanza, come dicevo prima, un'esigenza. Quindi è stata, diciamo, la fatica iniziale, dopo, insomma, la vita ti porta in un qualche modo a doverti esprimere, a dover tirare fuori quello che hai dentro, e il disco dei Fata ha preso forma in questo senso. Dopo abbiamo, insomma, l'incontro con Francesco ha favorito il fatto di poter... Sì, l'entrata di Francesco cosa ha sviluppato musicalmente nei Fata? Beh, insomma, Francesco, diciamo che dal punto di vista logistico è stato importante per avere in mano questo disco. Il disco era già pronto, noi avevamo già il master pronto, e i brani sono stati registrati in 2 sessioni diverse, e il disco è composto da 10 brani, abbiamo registrato in 2 sessioni diverse, a distanza di tempo. È stata, insomma, una cosa un po' particolare tutto il processo del disco, soprattutto dal punto di vista, direi, emotivo. I live che avete fatto precedentemente hanno contribuito allo sviluppo anche del disco? Ma quello sicuramente, il live è, diciamo, il nostro campo, è il nostro ambiente. L'ho chiesto apposta, il lo nostro sapevo. Ambiente è il live. ci siamo fermati un po' durante la preparazione del disco, abbiamo ovviamente ridotto esibizioni live, però insomma, la percezione del nero è stato tour per 3 anni, nel senso che abbiamo girato il possibile per poter, insomma, far sentire la nostra musica. Benissimo, visto che abbiamo un'esigenza, quella di far sentire la musica, apriamo la finestra come sempre e mettiamo il primo pezzo da disco. Io ho scritto nella recensione che mi ricordava, è un bel ricordo, secondo me, io ho una certa età, non sono giovane come voi, mi ricordava l'inizio di Vienna degli Ultravox. Beh, è una bella cosa, secondo me. Andiamo, è un pezzo, andiamo bene. È un pezzo storico degli Ultravox. È molto bello come inizio, dà proprio la chiave di lettura giusta del disco. La sentiamo assieme e poi ne parliamo, ok? Ok. Radio Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Eccoci qua, questo inizio solenne, possiamo dire così, questo finale un po' claustrofobico, un sacco di suoni, un sacco di effetti. Adesso me lo spieghi, me lo spiegate come è nato, come si è sviluppato, perché avete aperto giustamente il vostro disco con questo pezzo? Perché fondamentalmente è la chiave di lettura di tutto il disco a livello di intensità, a livello di anche tematica, perché questo disco rappresenta un po', rappresenta un diciamo, uno stato di, da una parte uno stato di confusione e uno stato di dolore forte per una serie di motivi, quindi è proprio l'atto di dover in qualche modo sfogare tutta questa sofferenza. E Diviso 2, che è il brano che poi dà il titolo al disco, che è un brano importante, perché la title track è sempre un brano importante in qualsiasi posizione sia, il primo, il secondo, il terzo, il decimo, di solito o il primo o il decimo. Voi avete scelto il primo, cioè proprio l'inizio deve essere così, basta, c'è poco, sì, da fare. È un brano che è nato di getto, nel senso che la chiave di lettura del brano e anche del disco è proprio racchiusa anche nella frase: il dolore chiude lo spazio e amplifica il tempo, nel senso che quando una persona soffre per diversi motivi si sente come chiusa in una bolla, cioè il resto è fuori, ti rendi conto di essere poco. Noi siamo veramente poco, quindi siamo solo riflessi. Certo, giusto, una cosa. Quindi siccome questo per una serie, insomma, di motivi personali, per me è stato un periodo molto difficile, e questo è stato il modo per cercare di uscire da questa, da queste problematiche. Diviso 2 dal titolo al disco, che vuol dire diviso in due, capito, diviso in due parti, perché ho perso delle parti di me nel corso della vita, quindi questo brano vuole rappresentare questo e dà la chiave di lettura di tutto il disco. La composizione, il testo è tuo praticamente, la composizione musicalmente è tua o c'è stata l'ausilio degli altri? Allora, diciamo che in questo brano è anche la composizione mia, cioè nel senso è tuo completamente. Questo brano in realtà viene poi arrangiato da tutta la band. Certamente. E come arrangiate i pezzi, fatta, come arrangiano i pezzi? Come vi trovate? Democraticamente discutete? È giusto il momento giusto? Oppure bene, discutiamo. Discutete democraticamente, assolutamente. Sì, sì. È il nostro grosso problema. Discutere democraticamente. Sì, sì. Randellate, violenze varie. Sì, sì, sì. Se ci fosse un leader sarebbe molto meglio. Sì. Perdiamo ore e ore. Ma è bello così, vuol dire che c'è. Però poi trovate un accordo. Chiaramente. Sì, per votazione. Per in posizione fisica, insomma, in un modo o nell'altro ci saltiamo fuori, però sì, di solito arrangiamo tutti insieme. Si parte sempre di solito da jam, o qualcuno ha un'idea per portare avanti il pezzo, poi pian piano si lima per arrivare. Cioè un pezzo scano, cioè Roberto come l'ha scomposto? In modo scano con la chitarra solamente, facciamo un'ipotesi, e poi gli altri strumenti ci sono. Ma lì dipende, non c'è una regola. Non c'è una regola per questo, questo brano è nato elettronico. Ah, elettronico. Si lavora sull'elettronica. E questo è un caso dove praticamente il brano era quasi già fatto. Ho capito. È un'eccezione. Solitamente in genere si porta un'idea su dell'elettronica, su delle tastiere. Certo. Con la linea vocale, già un testo, e dopo si cerca di svilupparlo. L'ambiente del brano però c'è già. Ok, ho capito. Che è quello che penso che sia importante. Cioè ambiente e tematiche trattate, il modo in cui viene utilizzata la melodia. Quindi quello è di partenza. Dopo l'arrangiamento, insomma, le finezze strumentali, la ricerca nel suono, quelle avvengono in un secondo, tempo. Siamo pronti, siamo proprio pronti a cominciare la cavalcata dal vivo, chiaramente. Prima abbiamo sentito il pezzo dall'album, adesso sentiamo il pezzo dal vivo. Abbiamo la batteria elettronica, una bella cosa. Abbiamo ospitato solamente due band che avevano la batteria elettronica, lo sai? E questa è la seconda volta, ma è molto positivo, molto interessante. Cosa cominciamo questa cavalcata dal vivo? Iniziamo proprio con Diviso 2. Ecco, la versione però live. Questa è la versione elettroacustica. Bellissima, fatta esclusivamente per noi, una cosa fatta ad hoc. È inedita. Inedita al 100%. Perfetto. Riflessi che attraversano la vita cercando spiragli di luce, segnati dal dolore del distacco alla ricerca di certezze per riconfermare uno stato di coscienza. Siamo solo riflessi, evanescenti e flebili come un pallido raggio di luna, a ricordare ogni volta che non si può tornare indietro mai. Indietro mai. Indietro mai. Indietro mai. Indietro mai. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Una versione completamente, come si dice, scheletrica. Possiamo dire scheletrica? Scheletrica nel senso positivo e non negativo. Scheletrica è minimale, minimale. Ecco l'aggettivo migliore, minimale. Proprio. Minimale, che bello. Perfetto. Perfetto, va bene così. Perfetto il nostro, sì. Proprio bella. Cioè, la voce era in risalto, gli strumenti facevano da contorno, giustamente, doveva essere così. Sì. No, doveva essere così. Doveva essere solo voce e gli strumenti niente, però siccome siamo una band democratica... Democratica, avete potremmo... deciso di fare così. Ti serviva compagnia per tornare a casa. Esatto, quindi... perché non potevo prendere la macchina. Perché guidi te, porti a casa di te. No, no. Guidano gli altri. Ho capito. In ogni caso è stata una bella versione. Creata appunto per Rock Away, per questa trasmissione di stasera, può essere sviluppata anche dal vivo una versione totalmente di questo genere. Ma senza gli strumenti che danno più vigore. Possiamo anticipare che il 4 faremo l'elettroacustico. Ah, bene. Quindi riproporremo i brani che facciamo stasera, anche la presentazione, per riuscire. Era impossibile fare un live elettrico, quindi volevamo comunque fare qualcosa, allora abbiamo preso due piccioni con una fava. Bene. Vediamo l'occasione per dire che il 4 presenteremo il disco il a Carpi. Il 4 a Carpi. Bene, una volta l'uscita del disco e in concomitanza faremo una presentazione ufficiale. Bene, presentati nella vostra città, quindi è una cosa molto importante. Sì. Noi siamo più importanti della vostra città, dove siamo arrivati prima. Siete arrivati prima, quindi... Ho capito. Bene, bene, una cosa molto positiva. Ok, questa è la versione acustica del pezzo che è la title track. Avrei detto che non ci sono state difficoltà. I pezzi sono stati buttati via di getto, cioè eseguiti di getto, o sono stati provati, riprovati, rimischiati? Beh, noi siamo musicalmente siamo molto esigenti con noi stessi. Quindi avete proprio per fare 10 brani ne abbiamo scartati 30. Tanto per dire, insomma, noi se c'è una cosa che non va, noi lasciamo stare. Non ho capito. Dobbiamo essere tutti convinti, perché è fondamentale entrare nel pezzo quando lo si suona. Questo è fondamentale, cioè al di là della tecnica, al di là delle cose. Ma non c'è sugli altri 20 che avete scartato, c'è qualcuno di positivo? No, beh, sicuramente idee valide, ma... ma te l'ho detto, è il nostro problema, la democrazia. Ma come mai si scarta un pezzo? Ma noi guardiamo spesso che un pezzo deve prendere tutti e 5 nello stesso modo, perché comunque uno... Quando si suona dal vivo, se uno di noi 5 non crede fino in fondo al pezzo, il pezzo risulta un po' zoppicante. Esattamente, un po' zoppicante, in che senso? Noi in fondo siamo una barca, no? Quindi se tutti e 5 remano nella stessa parte, si va belli dritti, belli spediti. Se uno invece tira indietro, La barca va via storta. Ok, benissimo, la barca va via storta. È una cosa molto interessante questa della barca che va via storta. Qualcuno altro vuole dire... tu che sei new entry, puoi dire te qualcosa? No, new entry in realtà... Dai, vai. New entry di sette anni. Sette anni. New entry... Ormai prende la residenza a Carbi anche lui. Ormai. No, non stavo seguendo il discorso. Siamo a Padova. Non parlavo del discorso della democraticità dei pezzi, come è nato l'idea di fare i pezzi di getto oppure no? Sì, beh, l'urgenza comunque è sempre una questione che ti spinge a fare le cose di getto. Capito. Però comunque la nostra forza e poi anche quello è quello comunque di discutere sempre tutto e quindi è una cosa che è dura perché è una sfida continua ogni prova, però è una cosa che unisce anche, questo credo che sia importante proprio per la coesione della band. Certo. Anche perché pensiamo che i risultati si vedano, cioè, piuttosto sì. Che mettere una cosa che non convince, cioè, noi di questo disco siamo convinti al 100%, quindi sul fatto che nasca di getto o non nasca di getto, poi lì dipende anche dal brano, dalla lavorazione, da tante cose, però l'importante è comunque sentirsi all'interno del pezzo, cioè, certo. Io penso che un problema che ci sia fondamentalmente in Italia è che si badi al resto, cioè non alla sostanza, cioè non quello che il pezzo ha da dire, non alla comunicazione intesa come comunicazione, ma non alla passione, non al sentimento, ma alla tecnica, quello che vuoi. Noi siamo un po' di vecchia scuola. E a proposito di convinzione, anche noi eravamo convintissimi, si può dire così, al 100%, io e Alberto, il nostro direttore artistico, che qua è arrivato, perché vi abbiamo chiamato, perché chiaramente era un disco valido, aveva bisogno di essere sentito dal vivo qua dentro. Bene, ecco, primo posto stasera nella classifica, quindi è una cosa positiva. Ne siamo onorati. Bene. Allora, a proposito di onorare, sentiamo un altro pezzo da disco stavolta, la traccia numero 2, che si intitola, Roberto? Si intitola Non sono io. E ne parliamo dopo, Esatto. Ok. Thank you. thanks, thanks, never thanks. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito il singolo praticamente dell'album e, come abbiamo scritto nella recensione, è un pezzo molto accattivante che entra immediatamente, perché ha il ritornello che prende immediatamente al 100%, c'è poco da fare, poche strofe e via. Roberto, cosa dici? Niente, cosa dico? Sì, sarà, questo sarà il singolo del disco. In realtà il primo singolo del disco, in realtà via web abbiamo anticipato il disco con un video web fatto apposta per YouTube, per i siti, con un altro brano che è Venere Dorme, per anticipare un po' il disco, per insomma iniziare a dare qualcosa. Il video invece, diciamo, serie ufficiale, uscirà in concomitanza con la presentazione del disco, che verrà fra qualche giorno il venerdì. C'è la presentazione, verrà proiettato anche il video nuovo, che è il video di Non Sono Io. Bene. È una cosa molto positiva. È una cosa molto positiva. Soddisfatti, vi vedo dalle facce. È un brano in cui crediamo molto. E come dicevi tu, insomma, il fatto che abbia fatto questo effetto a voi, insomma, certo, è così. Ci fa ben sperare, ecco, speriamo anche, che anche sia il nostro così. Produttore ha fatto un effetto. Anche a lui. Non dice niente, lui. Lui ascolta. Ascolta, poi dirà più tardi, sono le 11, quindi parlerà anche lui sicuramente. Sì, quindi abbiamo parlato di questo pezzo che, ripeto, io l'ho sentito, mi è entrato immediatamente in testa. Il ritornello entra immediatamente, cioè viene subito fuori, chiaramente. Questa è una cosa positiva. Sì, è melodicamente uno dei brani sicuramente più accattivanti, più facili probabilmente. La costruzione sonora è stato così facile, non mi pare. La costruzione sonora, no, beh, no, come tutti i nostri brani, no, insomma, è stato insomma, lavorato parecchio dopo l'idea, come succede sempre, ed è un brano, insomma, anche questo che parla di difficoltà di comunicazione tra quelle che possono essere due persone, quelli che possono essere due mondi diversi, quelli che possono essere due religioni diverse, quello che può essere inteso, uno lo può interpretare come vuole. E il ritornello recita appunto che molto spesso non siamo noi a decidere di noi stessi, certo, è vero, ma questo. Sono gli eventi, le cose che succedono e ci succedono intorno, esattamente, che spingono. Esatto. Una cosa devo chiederti, oltre a voi, chi ha suonato nell'album, solo voi o d'altra gente? No, nell'album solo noi. Solo voi. Questo produzione solo tutta vostra? La produzione è nostra per quello che riguarda il master e le registrazioni. Produttore artistico è Davide, ragazzi, che stasera, che comunque ha seguito tutto il lavoro. Ho capito. In studio, pre e dopo. E poi, però, vabbè, una mano il nostro Simon, che è stato il fonico che ci ha registrato. Il fonico che, diciamo, per la prima volta siamo riusciti a trovare veramente una persona con la quale siamo entrati in sintonia, anche per una questione di gusti e di riferimenti musicali. Cioè lui ha capito un po' quale doveva essere il suono dei Fat, e noi siamo molto contenti di come suona questo disco. E poi tu hai parlato del fonico. Il fonico è essenziale, un sound come il vostro, secondo me è fondamentale. Sì, sì. Anche perché è una persona veramente molto paziente, oltre che, vabbè, avere delle capacità tecniche che, beh, chiaro, sono indiscutibili. Poi una pazienza infinita, e con cinque teste come noi, oltre alla parte lavorativa c'era anche tutta la parte ludica. E quindi si è trovato in una si è divertito. Sì. Ha perso tanti soldi alle scommesse, però, però è stato positivo, dai. Sì, alla sì, fine sì. Il lavoro, quando uno vede adesso il disco sarà pubblicato, lo troverete nei negozi di dischi, è una cosa molto interessante, bello. No, ma poi per noi è stato importantissimo, perché ci ha messo a nostro agio, e quando ti trovi a parlare, comunque a lavorare con una persona che capisce il tuo linguaggio, sulla stessa lunghezza d'onda, lavori con una tranquillità infinita, quindi ti puoi permettere anche di scherzare, ridere, avere pause, però quando lavori produci il doppio. Certo, certo, quando lavori produci il doppio. Diretta rockway.tk, ci possono vedere con la webcam stasera. E ringraziamo, salutiamo tra le nostre affezionate ascoltatrici, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci sentono sempre. Buonasera. E salutiamo tutto chi sta ascoltando, chiaramente. Salutiamo tutti i vostri fans potenziali, che se ne sono sparsi via con internet, si possono sparsi in qualsiasi parte del mondo, chiaramente. Cosa suoniamo adesso? Adesso suoniamo Senza Cura. Benissimo, ok. Adesso ci disponiamo, batteria elettronica, siamo pronti? Sì, ok, siamo pronti. Carità di tutto ciò che mi circonda, annullarsi nella precarietà di tutto ciò che mi circonda e poi svanire nella precarietà di tutto ciò che mi circonda. L'universo vive la precarietà di ciò che lo circonda. E cambiano le cose in modo rapidissimo, e cambiano le cose in modo rapidissimo. Contemplare la precarietà di tutto ciò che ti circonda e poi svanire nella precarietà di tutto ciò che ci circonda e fare ogni cosa per sopravvivere all'amore che ho per te. Fare ogni cosa per sopravvivere all'amore che ho per te. Fare ogni cosa per sopravvivere all'amore che ho per te. Fare ogni cosa per sopravvivere all'amore che ho per te. Che ho per te. All'amore che ho per te. All'amore che ho per te. All'amore che ho per te. All'amore che ho per te. All'amore che ho per te. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Roberto, Federico, Milo, Brando, ovvero sei fatta. È il nostro produttore, il tuo nome non lo ricordo più. Francesco. Francesco, perfetto. Bellissima esecuzione. Questo pezzo, questa frase che si continua a ripetere volutamente, è una cosa molto positiva, secondo me. Ipnoticamente quasi. Sì, l'effetto voleva essere quello, quasi come un karma per un karma, esatto, un karma da ripetere a se stessi per sopravvivere. Un mantra. Un mantra, scusate, un karma, un mantra. Mantra, vabbè, abbiamo capito, andate a dire questo, insomma. Esattamente, una cosa che si ripete continuamente. E anche musicalmente una strofa che si ripete. Sì, proprio per sottolineare quello che è un concetto elementare che però viene considerato poco, che in realtà tutto è precario, non c'è niente di certo, e questa cosa la si avverte in maniera secondo me superficiale. Quando poi succedono determinate cose che condizionano la tua vita, allora ti rendi conto veramente di quanto siamo fragili e di quanto sia veramente tutto molto relativo. Certo, dal punto di vista dell'adattazione, qual è il pezzo più vecchio dell'album dei 10? o più nuovo, ecco. Più nuovo e più vecchio. Più vecchio direi Visione. È Visione Moderna. È Visione Moderna. Mm. Il più giovane è questo. Ah, il più giovane è questo qua. Qui è nato proprio di questo gesto, in un pomeriggio, quattro giorni prima di entrare in studio. È bello in un pomeriggio, sì, sì, pomeriggio d'inverno o d'estate. D'inverno, sì, sì, d'inverno. A marzo. Ma eravate assieme o avete creato tutti assieme questo pezzo qua? No. O solo Roberto? Questo qua è questo, fa parte sempre della, sempre a parte della mia necessità di dover... Ho capito. Per non... Sì, ho capito, cioè, esatto, parte delle tue... è nato proprio nel senso che è andato in sala prove. Ah, ma c'ho questa idea, ascoltatela. Ecco. Fa sentire. Noi stavamo limando gli arrangiamenti dell'altro pezzo e lui è arrivato dicendo... Ecco, Roberto, io facciamo questo esempio, lui Roberto ha questo pezzo, mettiamo che dà questo input, e poi come lo sviluppate, come l'avete deciso di sviluppare, gli arrangiamenti, questo è importante, perché è importante il testo, il pathos che ci mette lui a cantare, però è importante anche il resto. Veramente ogni pezzo ha un modo diverso di essere prodotto e arrangiato, per esempio senza cura, cioè è proprio arrivato di getto. Sì. Cioè, lui aveva già in testa gli arrangiamenti, no? No, assolutamente. Con l'idea, una linea melodica, si è messa a suonare e veramente è nato così. Cioè, quello che potete sentire su CD è credo il 90% della primissima versione. Versione, praticamente era poco cambiata. In questo caso c'era già un'idea, sì, un'idea. È proprio venuta una cosa dove c'era già, sono arrivato con dire, ma questa è la melodia, anche la melodia principale di tastiera, cioè avevo le idee chiare su questo pezzo, infatti il tempo era pochissimo perché stavo definendo le ultimi ritocchi per entrare in studio, ho detto ragazzi ascoltate questo e praticamente c'è stato da suonarlo, perché ovviamente è tutto elettronico, era tutto elettronica, batteria elettronica, tutto elettronico, noi adesso stasera la batteria elettronica in realtà è tutto suonato, dopo probabilmente lo sentirete anche la versione. Certo, la versione. E il basso che stasera Daniele non c'è, che funzione fondamentale. Per noi sì, per le sonorità anni 80 il basso è sicuramente uno strumento portante, sia per linea che per intensità, quindi poi tra l'altro Davide è diciamo la persona a livello tecnico, sì, e di conoscenze più qualificata, che è quella insomma che alla fine affina tutte le cose, tutte le idee grezze che noi portiamo, perché adesso si è parlato di due brani dove l'idea l'ho portata io, in realtà anche Federico porta diverse idee, le componenti sono, dopo c'è la persona che insomma segue, guarda dall'alto, un po' distaccata diciamo dal punto di vista emotivo sul brano, e cerca di grazie insomma sì, ho capito, cioè di portare a compimento un po', esatto, tutto. E questa è la versione minimale, come abbiamo detto, per Rock Wave stasera, per la versione elettroacustica, una versione più corposa, come sarà? La versione corposa adesso si sentirà quando inizieremo a fare elettrico, è decisamente un brano molto molto più corposo. Sì, perché anche questo ripetersi da quell'input là. In generale sì, i brani nostri sostenuti sono generalmente molto corposi, poi noi dal vivo insomma il nostro approccio live è decisamente punk, quindi... Ah, è decisamente punk, è interessante questo. Giusto per, siamo insomma, fine anni 70. Sì, sì. Quindi per mettere i puntini sulle i, sì, siamo c'è poco da fare. Dal post-punk alla new wave, insomma... Però è bello avere due facce, due sistemi. Stasera avete un sistema elettroacustico, è molto positivo. Beh, quello è una cosa anche, voglio dire, è uno dei pochi momenti in cui ci sentiamo musicisti, perché noi insomma non ci definiamo mai musicisti. In realtà questo esperimento ci porta a sentirti musicista, nel senso, certo, che i brani sono completamente diversi ed è un'altra cosa, sono due cose completamente diverse. Qualche maligno dice o ha detto che quando si fa rumore spesso e volentieri si nasconda certe cose, si nascondono certe cose, mentre quando si fa elettroacustico non si può nascondere nulla. No, in realtà abbiamo in regia tutto registrato. Alla fine ci ridà il CD delle il barre. Il play ci ridà il CD con l'elettroacustico. Benissimo. A fianco ci sono i musicisti. Ho capito, benissimo. Ok, 22:47, sentiamo un altro pezzo da disco, la traccia numero 3 che è? La traccia numero 3 è L'uomo che cade sulla terra. Perfetto, l'uomo che cade. La sentiamo. Never sommario alla nostra esistenza. Lasciami un secondo per capire forse cosa fare. Siamo solo pietà che si rincorrono. A quanto poco può servire conservare in me la lucidità per dimenticare, pensando di non fare parte di questo pianeta. Amami un secondo, giusto il tempo per lasciarsi andare. Siamo solo pietà che si rincorrono. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, un bel giro, aveva un bel tiro, come si dice in gergo questo pezzo, vero? Sì, sì, assolutamente. No, dovete spiegarmelo, perché aveva questo tiro questo, che coinvolge? Sembra fatto apposta, ma sono i tre brani che ho portato io. In realtà non è... No, anche questo è nato abbastanza, cioè, quando sembra una cosa, insomma, che detta così sembra un po' una favola. In realtà, quando c'è veramente la necessità di dover dire qualcosa, le cose escono così. Cioè, escono. Questo brano ha il titolo che è un riferimento al primo film girato da David Bowie. Che era volevo dirlo, però, ma l'uomo che cade sulla Terra e arriva proprio dal caro Newton. Del film, certo. È un riferimento, perché poi in realtà c'è un verso in questa canzone che dice penso di non fare parte di questo pianeta. La sensazione che ho avuto e molto spesso è proprio di non sentirmi a mio agio con... Ho capito, però non c'è poco, anzi non c'è niente di Bowie nella vostra musica. Secondo me qualcosina c'è. Dove è nascosta, allora. Qualcosa c'è. Bowie è in realtà è un grande, adesso che ha compiuto 64 anni da pochi giorni, praticamente gli hanno fatto su un giornale famoso sì, un settimanale. Molto importante, fa 700.000 copie ogni settimana, e sì, hanno parlato di 64 anni, hanno parlato di suoi dischi, visto che ci siamo, un flash, so che la domanda è alle 11, però un flash, secondo me i migliori dischi di Bowie dove, come li catalogate? La trilogia berlinese, punto. Allora basta, Low. No, è un disco fondamentale. Lo è stato per Bowie, il disco di passaggio il primo disco della trilogia berlinese, l'incontro con Brian Eno. In realtà lui usciva da un periodo molto molto difficile suo personale, perché stava male, certo. Era in separazione con la moglie, stava male fisicamente perché era voglio dire, dipendente dalla cocaina, sì. Aveva tante altre cose, sì, preso dalla magia nera, eccetera, eccetera. Il fatto di andare a Berlino con Iggy Pop, che non è il migliore dei compagni, per riprendersi, sì. E tant'è che insomma anche lì insomma, il distacco dalle droghe è stato un po' di... Low è un disco dove lui, anche dal punto di vista testuale, è stato molto difficoltoso per Bau. Infatti metà disco Brian Eno lo ha diciamo messo avanti lui proprio perché Bowie non riusciva in quel momento a coprire con le parole certe cose, certo, e certo. Da lì è nata questo mix di brani con testo e brani senza, questo è vero, che sono quelli della trilogia berlinese. Low è un disco importante perché almeno per quello che mi riguarda, perché mi ci sono un po' rivisto, mi sono un po' specchiato, capito. Per quello che riguarda Diviso 2, quindi per diverse problematiche diverse, insomma non legate alla droga, però problematiche diverse, e c'è un collegamento ideale, insomma. Mi sono sentito affine con Bowie. Tu hai citato Iggy Pop, dobbiamo sottolineare che se Iggy Pop musicalmente è rinato è grazie a Bowie. Assolutamente. Quindi, come Iggy Pop, anche Lou Reed, anche di due, esatto, beh, Transformer è stato lui, Idiot di, esatto, di è stato Pop. Lui sempre lui. Ok, abbiamo giustamente onorato un grande maestro come Iggy, come anche Iggy Pop, un grande maestro. I Stooges era un gruppo aveva una potenza devastante, sì. Adesso un po' meno, perché l'ultimo disco che ha fatto Iggy Pop, disco abbastanza calmo, rilassato, però è sempre lui. Nonostante abbia una certa età, si presenta comunque. Però è ancora vivo, e questo è importante. Benissimo. Dunque, sono le 22:55. Cosa facciamo? Possiamo fare un pezzo dal vivo adesso? Cosa dite? E dopo facciamo il giochetto delle 23. Il pezzo dal vivo. Il pezzo dal vivo è Venere dorme. Benissimo. Cercare la strada per tornare da te, poi aprendo gli occhi mi accorgo che la nebbia non c'è e che tutto non è mai stato così trasparente, così chiaro. Semplicemente non esiste una strada per tornare da te. Sottile amarezza si è impossessata di me e tutto sembra così irreale. Una sottile amarezza si è impossessata di me e tutto sembra così irreale. Perso nella nebbia, non mi basterà solamente distogliere lo sguardo da te per capire che senza un perché è ciò che inizia ha una fine. Anche la dolcezza in un cuore, così la poesia che aveva in te un essere speciale. Una sottile amarezza si è impossessata di me e tutto sembra così irreale. Una sottile amarezza si è impossessata di me e tutto sembra così irreale. Sembra così irreale. tutto sembra così irreale. E tutto sembra così irreale. E tutto sembra così irreale. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti dal lunedì al venerdì con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte su Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con i Fata qui a Rock Wave questo mercoledì dal vivo. Come sempre suoniamo e parliamo del disco nuovo dei Fata. E siamo alle 23, sapete, alle 23 c'è il piccolo giochetto, il giochino, i tre dischi da portare su un'isola deserta, a vostro completo piacimento, senza nessuna imposizione, quello che secondo voi sono i dischi che adesso vorreste portare su un'isola deserta. Posso fare quattro? Fai quattro, dai. Brando, ha parlato Brando. Vai Brando, vuoi iniziare te Brando? Sì, sì, inizio io, ci vedo una vita. Vai. Vabbè, allora, legati alla mia giovinezza, sì. Dr. Feelgood e Motley Crue. Ah, i Motley Crue, come mai Dr. Feelgood e Motley Crue? Beh, io sono cresciuto, cioè sono entrato nella musica dei grandi con i Motley Crue. Sono entrato dalla porta principale. Rockettari, quelli pesanti. Sì, sì, proprio glam. Lui è quello che distrugge le camere di albergo. Perfetto. Grazie ai Motley Crue. Ottimo. Con Russale. E Dr. Feelgood perché? Dr. Feelgood perché... Cosa c'è il blues che conta? Innanzitutto, vabbè, è il primo disco, fra virgolette, in cui sono ripuliti. Il primo disco con Bob Rock. E forse anche stato il primo disco che mi è piaciuto. Ho capito. E quindi sono legato proprio per quello. A quelle sonorità là. Poi c'è un disco dei Faith No More, The Real Thing. Vai sempre sul pesante. C'è poco da fare. Perché in arrivo. Perché comunque mi ha fatto scoprire la tastiera nel rock. Ecco qui, è importante. Sì, io arrivando da un percorso punk, glam, mi si è aperto un mondo. Un altro mondo. Mi si è acceso una luce. Poi suonando anche le tastiere. Certo, detto, vabbè. O lascio lì di suonare, forse sarebbe stato meglio. E quindi ho scoperto le tastiere nel rock. Bene. Poi c'è Disintegration, The Cure. Ah, un grande disco quello di Robert Smith, è un grande musicista. Sì, sì, sì. Disintegration, secondo me, personalmente, io reputo il miglior disco di Cure. A mio parere, assolutamente a mio parere. Meraviglioso. E lì sono entrato nel mondo Wave Dark. Okay. Mi ha fregato il disco. Ti ha fregato il disco, c'è poco da fare. È per quello che volevo partire io. Chi tocca adesso? No, poi c'ho l'ultimo. Ah, c'è l'ultimo, scusa. Ho vinto il bonus. Esatto. E poi c'è Grace di Jeff Buckley. Ecco, Chris Isaac Buckley, sai, posso dirti una cosa? Ho rubata fede questa. Bene. Tantissimi musicisti che sono venuti qua hanno citato Jeff Black, giustamente, perché Jeff Black, Chris è un capolavoro assoluto. Un album irripetibile, secondo me. Ha fatto solo quello, purtroppo, ma l'ha fatto in modo incredibile. No, si vocifera anche di un secondo in mano alla mamma, però. Sì, ma sempre in mano alla mamma. Tutti i tape sono sempre della mamma, però ufficialmente, dopo ci sono uscite altre cose trovate nei cassetti. Però Grace rimane Grace, c'è poco da fare. Disco meraviglioso. E della mia maturità come uomo. Beh, uomo, sono. Che uomo sono, ragazzi. Vado via con questa. Con questa possiamo andare via. Suona come Mozart. Chi tocca adesso? Vado io, Federico. Rubo anche gli altri robe. Federico, vai. Allora, sicuramente un disco fondamentale è Closer dei Joy Division. Ah, grandi Joy Division. Pochissimi album incisi, ma fondamentali. Sì. Quello è molto bello. Per le atmosfere. Sì, per tutto praticamente. Sì. Per tutto. E poi dopo, forse il mio album in assoluto preferito è Five Leaves Left di Nick Drake. Adesso ci fermiamo un secondo, che non è... sono i tre dischi di Nick Drake più questo. Nick Drake, perché? Perché non hai scelto Pink Moon, per esempio? Hai scelto quello là. Pink Moon è sicuramente un disco eccezionale, è l'essenza di Nick Drake. Certo, perché invece hai scelto questo disco di Nick Drake? L'ho scelto perché probabilmente è il suo più vero. Capito. Nel senso che come brani ci sono i brani che io ritengo, cioè quelli che veramente toccano le corde, che a sensazione sono l'essenza di Nick Drake, anche certo. Se solo chitarra e voce è sì. Nick Drake, quindi giustamente molti... Tu sei un chitarrista, ma dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando che gli accordi di Nick Drake sono difficilissimi. Sono difficilissimi. Ah, vedi? Sono difficilissimi, ragazzi. C'è poco sì, perché sono tutte accordature sì, particolari. Lui ha creato praticamente ogni brano ha un'accordatura sua. Esattamente. Meraviglioso. Più che altro a me, quello che mi piace un sacco di Nick Drake a livello proprio chitarristico, perché per me è un riferimento, è il senso del tempo sì, che ha, capito, il senso della ritmica rispetto alla sua voce, è un accostamento, e poi facendolo lui, sia la chitarra che la voce, è una cosa... Ha un musicista straordinario che è stato rivalutato lentamente ma progressivamente sempre in continuazione. Sì. Scoperto da Joe Boyd, famoso produttore, scopritore di talenti, ha fatto solo tre dischi purtroppo però. Che ha fatto di tutto per insomma dargli sì, notorietà, ma... forse è stata anche la cosa che l'ha distrutto. Esatto, era troppo fragile per avere la notorietà, esatto. Doveva rimanere com'era, però sai, le cose della vita, non c'è poco da fare. Benissimo, poi, allora? Poi citiamo un disco che stranamente, non io non apprezzo molto i dischi live, ma questo lo cito perché mi ha dato molta, molta forza ascoltandolo. Non avendolo visto dal vivo, però è un disco che ti trasmette l'energia che invece dal vivo il Litfiba davano sul palco, che aprite i vostri occhi. Benissimo, sì. E cosa ne pensi degli ultimi Litfiba? Quelli che sono adesso in giro, che fanno i sold out dappertutto dopo la ricostituzione. Tocca a Robby. No, beh... io apprezzo sicuramente i Litfiba anni 80. Anni 80, esatto, sì. Ho apprezzato anche i Litfiba anni 90, insomma, abbastanza. Adesso non sento più quello che c'era nei primi dischi. Beh, i primi dischi fino all'89 e certo. Poi dopo poi quasi stato... nulla. Esattamente. Bene, ma andiamo anche al produttore, visto che è qui vicino. Vai davanti al microfono, così gli citi anche tre. Salve a tutti. Roberto e il nostro batterista. Questa è una domanda difficile, scegliere tre dischi che mi porterai nell'isola deserta. Beh, uno ce l'hai qua. Qua. Ecco. Uno sarà sicuramente quello dei Fatta. Benissimo. Quello è fondamentale. Ecco, fregato uno, ce l'avevo. Quello è fondamentale. Un altro disco che ce l'ho proprio a cuore è il disco di Beatles, White Album. Ah, bellissimo. Quello mitico doppio album. Sicuramente in un'isola deserta mi porterai quello lì. Perché è completo, c'è pure di completo, tutto. Esatto. C'è proprio di tutto. E poi ancora? Come terzo? E poi io sono a me piace ascoltare la musica a 360 gradi, quindi dal pop al rock al metal all'elettronica. Per cui altri due dischi che porterei oltre i Fatta e i Beatles. Fatta e Beatles mi sembra già un abbinamento. Ci siamo. Sembra già che a 360 gradi. A 360 gradi. Sono abbastanza indeciso. Beh, Fatta e Beatles, quelli li porteresti sicuramente. Sicuramente. Ok, Roberto e il nostro batterista, vai. Roberto ci deve pensare ancora un po'. Mi ha fregato Disintegration dei Cure. Io approfitto per tranquillizzare il coach che è a casa e ricordo che io per contratto non posso rispondere a questo genere di domande perché io ho degli ascolti più ampi rispetto ai miei cari amici qui presenti. Basta, non parliamo di basta. Però direi, allora, se non si può copiare, il primo disco che avrei portato era Diviso 2. Però me l'ha già fregato Francesco, quindi porto La percezione del nero dei Fatta. Bene, mi piaceva più Diviso 2, però me l'hanno già fregato. Poi citerei Franco Battiato, vorrei una mega compilation che, che includa di tutto, tutto e di più, però dovendone dire uno direi La voce del padrone. Il disco da un milione di copie, ma il disco della svolta, di Battiato. E poi vorrei fregarne una Robby, adesso molte cose a dire il vero le hanno già rubate anche loro. Basta, tre già detti, siamo a posto così. No, due le ho detti. A posto così. Robby, tocca a te. Ah, così non me lo freghi. Magari sì, no, avevo in mente anche altre cose, perché io li ascolti più pop in realtà del gruppo, e quindi non riesco a non citare anche per esempio Morgan, che a me è tanto caro, sia con i Blue Vertigo che da solo. Ecco, da solo. E... Però, quindi mettiamoci dentro i Blue Vertigo. Anche lì... Ok, il Blue Vertigo di Morgan. Vai, adesso Roberto tocca a te e abbiamo finito il giro. Per me è un po' un problema, nel senso che sono veramente in difficoltà. Beh, io sicuramente porterei... The Queen is Dead degli Smiths. Ah, ottimo, ottimo. Johnny Marr è un grande chitarrista e Morrissey è una grande voce, quindi... Morrissey è una gran voce ed è anche un autore di testi, sì, notevole, molto bravo, molto, sì, molto notevole. Poi, visto che lui si è preso Closer dei Joe Division, mi porterei un No Pleasure. Perfetto, quindi c'è poco da dire. Ma in ogni caso sono due dischi meravigliosi. Io penso che Joy Division sia proprio la sintesi di quello di cui ti parlavo prima, cioè non erano musicisti eccezionali, no. Cioè, Ian Curtis stona anche su disco, però l'intensità che sono riusciti a dare, la sostanza, quello che lui diceva in realtà era tutto vero, il suo disagio, il suo malessere, cioè in Closer c'è passover trapasso, cioè cosa che lui poi ha fatto realmente. Quando una persona è realmente dentro quello che scrive, secondo me si raggiungono livelli al di là, cioè, della tecnica, al di là della tecnica. Questo i Joy Division penso che avessero questa grandissima qualità. Esattamente. Un altro disco che, visto che Battiato è già stato citato e Cure citati, potrebbe tranquillamente essere Black Celebration dei Depeche Mode. Ok, Depeche Mode, sì, benissimo. Direi che ci stanno ad hoc. Perfetto. Ragazzi, su quest'isola deserta ci troviamo, però facciamo una festa, chiamiamo DJ Neon e via. E via, e via. 23:10, 55 secondi, facciamo sentire un altro pezzo dall'album, che penso è la traccia numero 4, sbaglio? Traccia numero 4. Ok, la traccia numero 4 che si intitola, ti ricordi? Senza cura. Perfetto. Ok, sentiamo la versione. Il tiro. Esatto, il tiro com'era. cambiano le cose in modo rapidissimo. E cambiano le cose in modo rapidissimo. E cambiano le cose in modo rapidissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Mentre il pezzo andava, parlavamo, e era la sensazione che qualcuno ti stava addosso quando cantavi. Quindi è una cosa di molto pathos, di molta irruenza, nel senso positivo del termine. Beh, come tutto, in realtà questo è un disco che di pathos ne ha tanto. È proprio veramente, direi che proprio per riagganciarci a Joy Division, e questa è la finta. In realtà già dal titolo Diviso 2 racchiude anche un riferimento a Joy Division, Division Diviso 2, è in realtà quasi un concept, sì, anche a livello di tematiche, a livello di intensità, a livello di in questo brano è la frase portante, oltre alla precarietà che ci circonda in ogni cosa che facciamo, è proprio anche fare ogni cosa per sopravvivere all'amore che ho per te. Quando si ama intensamente una persona e cioè, si perde questa persona, uno deve sopravvivere in quel perché poi i testi sono istanti, cioè uno fotografa l'istante. Io non è che mi metto lì a scrivere, è un istante, una sensazione che ho viene buttata giù in maniera quasi inspiegabile, come se venisse da sola, sembra una sciocchezza, in realtà è così. Quindi è un disco che ha delle percezioni malinconiche, eh? Beh, sicuramente molto, sì, decisamente sì, malinconiche, sì. Qualcuno ha scritto che rispetto alla percezione del nero è più nero, più dark, siete d'accordo voi? Sì, sì. Siete d'accordo, perfetto, al 100%. Non è, cioè io non dico che questo è meno solare, però ha delle situazioni diverse, probabilmente. Di sofferenza, chiaramente. Sicuramente sì, sì. È un disco più scuro rispetto al precedente. Ma è l'evoluzione delle cose, chiaramente. Beh, sicuramente sì, anche. Si spera una maturità dal punto di vista... Beh, si dice che il terzo disco sia il disco della maturità totale, però... Mi è arrivato qualcosa, sì, adesso Alberto si me li porta. Un sacco di gente. Nicoletta, Elisa e Giuliette, salutiamo i Fata, i bicipiti di Brando, il ginocchio di Robby, il mignolo di Fede, la caviglia del coach e l'ombelico di Millo. Che poi, non vi faccio vedere. Ma... Bravissimi i Fata, complimenti al batterista Simone e Ciccio. Ah. E poi un abbraccio e in bocca al lupo ai Fata, grandi che siete, Silvia. Come sempre, Silvia. Bene, salutiamo tutti. Ringraziamo tutti, grazie, che ci stanno, grazie, seguendo. Salutiamo tutti quanti. E i bicipiti, com'è? Bicipiti di Brando. Di Brando. È una storia lunga. Sono quelle storie che però è meglio. Meglio lasciare fuori. Ok, benissimo. Sì, parlavamo allora che è un disco decisamente più nero, più dark, non so come. Meno chiaro, ecco, possiamo dire così. Sì. Ecco, per quello. Sì. È un disco, non è ovviamente un disco dark, però le sfumature sono scure, i temi trattati sono comunque... Esattamente. Facciamo un po' le comunicazioni di servizio. Il vostro sito, dove si possa trovare l'album, adesso il produttore parlerà dell'organizzazione, eccetera. Vai. Facciamo parlare tutto a Francesco. Beh, il sito della band è www.fattaband.it oppure su www.myspace.com/fattaband, giusto? Sì, sì. Bravo, è proprio così. Esatto. Anche Facebook? Anche Facebook è fattaband. Fattaband. Il disco esce nei negozi distribuito Audio Globe venerdì 4 fra qualche giorno. Febbraio. Si può acquistare direttamente sul sito di Audio Globe oppure entrare nei negozi a breve, insomma. Ecco. Benissimo. E le manifestazioni per promuovere il disco quali saranno, oltre alla presentazione a Carpi venerdì? Beh, con il live partiremo il venerdì successivo, cioè l'11 di febbraio, dal Vox, che è un locale prestigioso di Modena. Bene. E siamo molto contenti. Poi da lì avremo diverse date da lì a febbraio, però sono tutte in via di definizione, quindi sui nostri siti che ha appena citato Francesco saranno a breve disponibili. Formazione completa, chiaramente. Formazione completa. E suonato punk, come dicevo suonato prima. Punk, alla, proprio cattivo, via, senso positivo. Di rock and roll, sì, sì, un po' di rock and roll. Il punk scorga sempre, c'è poco da fare. Abbiamo voglia di sbragarci un po', qua siamo composti. Qui siete composti, però siete composti fatto bene. Che è una versione inedita, devo dire. Infatti quelli che ci vedranno in webcam è una versione inedita di vedere rifatta, in realtà. È stata difficile preparare questa versione inedita, secondo voi, oppure no? Un po' difficoltoso nonostante il quarto, il quinto pezzo che abbiamo deciso. È stato forse più l'approccio mentale iniziale, perché poi una volta che ci siamo messi a lavorare sui pezzi, devo dire che ci siamo trovati pronti abbastanza, in maniera abbastanza naturale. Senza tanti problemi, praticamente. Sì. Questo è positivo. Una volta trovata la chiave di lettura, volevamo fare una cosa che non fosse tipo voce chitarra, che non ci fossero troppe basi, cioè volevamo che fosse suonata la cosa, minimale ma suonata. E quindi insomma è come è successo adesso, esatto, minimale quindi... ma suonate, perché suonare è importante, poi voi che live è il vostro punto di riferimento, chiaramente. Esatto, poi in realtà lui schiaccia play e i batteri vanno da soli, lui fa finta, si muove, però ma che piacere c'è suonare una batteria elettronica? Secondo me c'è un piacere nonostante sia una batteria normale. C'è un piacere perché la suono. Certo. E ovviamente è molto diverso che suonare una batteria acustica. Mi ci sto cimentando e mi diverto. Poi avevamo fatto l'investimento di prendere questa macchina. È una macchina vera e propria. È una macchina vera e propria, molto interessante. E è stata anche l'occasione giusta per iniziare a usarla per bene. E poi è un piacere per noi perché abbassi volume. Sì, il piacere più che altro per loro. Esatto. Perché in sala prove non possiamo abbassarlo. Quando incomincia... E basta. A bellettone, come si dice. Perfetto, possiamo sentire un altro pezzo da disco, cosa dite? Che la traccia non mi ricordo io. La traccia è numero 5, numero 5 che è Venere Dorme, che è il video web che ha anticipato un po' tutto il disco, da un mesetto su YouTube e su Facebook, e per anticipare appunto l'uscita del disco. Che è il brano che abbiamo appena sentito. Esattamente. Yeah. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito il pezzo che era, mi pare che fosse stato proprio il primo singolo in assoluto questo. In realtà è stata un'anticipazione. Un vero e proprio singolo, nel senso che non ha avuto la promozione di un singolo, però abbiamo deciso di anticipare, siccome avevamo diverse, insomma, la gente che ci segue così aspettava qualcosa da noi, abbiamo voluto anticipare un pochettino con una chicca, quindi facendo, realizzando un web. Hai detto una cosa giusta, la gente che aspettava qualcosa da voi, cosa aspettava? Un disco nuovo, ma vi chiedeva, vi insisteva, quanto fate il disco nuovo? Abbastanza. Ma è così, sì, è così. Abbastanza, sì. Alberto, mi saluti da Antonella Ladini. Ecco, perfetto, grazie Alberto. Vi salutano tutte, veramente. Avete una schiera di fans, non da poco. Questo è un altro capo, c'è da salutare. Un altro capo. Bene, quindi cioè, la gente vi chiedeva il disco nuovo, chiaramente. Sì, ma insomma, il disco ha già 3 anni di La persistenza del nero. Sì. Quindi, voglio dire, passato l'anno e mezzo, ma quando è che fate qualcosa di nuovo qua? Poi noi, in realtà, la sessione di registrazione, come ho detto, sono state 2. All'inizio si pensava ad un EP, poi dopo gli sviluppi anche nostri hanno portato a voler fare un LP, quindi un CD sì. completo, e insomma nel frattempo la gente aspettava. Allora noi, vabbè, già ad esempio, siccome noi innanzitutto... I famosi 30 pezzi, 20 nel cassetto. In realtà noi voglio dire, ne approfitto anche per qui in radio per ringraziare di cuore tutte le persone che ci ascoltano, che ci seguono, che si spostano per venirci a vedere, che fanno dei chilometri per noi, e questo per noi è veramente un onore ed è una cosa veramente... È quello che ci spinge ad andare avanti. È quello che ci spinge ad andare avanti, perché comunque non sembra, ma iniziamo anche noi ad avere una certa età. Ma siete giovani, rispetto a me, molto giovani. E quindi cerchiamo, quando possiamo, di dare qualcosa a queste persone. Abbiamo fatto un concerto sempre al Vox di Modena l'anno scorso, e per dire, abbiamo regalato un mini CD con 2 brani, uno un inedito del disco vecchio che non è rientrato, uno dei famosi brani scartati che abbiamo comunque registrato, e un brano di questo CD. Ho capito. Perché volevamo, insomma, cerchiamo di coinvolgere nel possibile, nelle nostre possibilità, perché poi insomma di ringraziare tutte le persone. Ma c'è il nocciolo duro praticamente che vi segue sempre. C'è un nocciolo duro, ma è un nocciolo che cresce, cioè cresce man mano che andiamo avanti, ce ne rendiamo conto. Adesso voglio dire, grazie anche a internet, questa meravigliosa possibilità, ci sono persone che ci seguono, che sono in Sicilia, che sono poi, tra l'altro, il Veneto è una, tra virgolette, è la nostra seconda è la nostra patria. Seconda patria, perché gran parte del nostro seguito è qua, da noi, di questa regione. Avete anche i Fata Fan Club o no? Non ancora, però non ufficiali. Ma ci sono. Bene, positivo. Anche perché sembra una paraculata, però veramente, cioè, noi continuiamo piegati a suonare proprio questa gente qua che ci segue. Cioè, perché se avessimo continuato a suonare per un tornaconto economico, non esiste. A proposito di questo, voglio chiedervi, ho chiesto ad altre band che sono venute qua, si riesce a trovare lo spazio per suonare, o vi chiedono sempre le cover del vostro concittadino Ligabue o quello di Vasco? Punto di domanda. È un discorso che noi non affrontiamo neanche. Mi pare abbiamo giusto. Una proposta nostra, originale, quindi ci muoviamo sui canali che ci permettono di promuovere. Ma esistono ancora i canali? Il resto non ci interessa. Esistono i canali? Sempre meno, con molta difficoltà, vero? Meno mezzi, le cose sono più limitate, è molto più difficile. Meno voglia, e questo qua si potrebbe aprire un discorso nucleare lunghissimo. Sull'Italia, lunghissimo. Eccetera. Sei di sicuro Francesco? Francesco, lui ecco, è più coinvolto su questo. È più a tema, può parlare per ora. Ma io ti spiego, Francesco, il motivo è questo della domanda, perché tutte le band che sono venute qua, hanno questa difficoltà incredibile a proporre i pezzi propri. C'è niente da fare. O trovano dei locali di un certo tipo, che, come avete tu, il Vox di Modena voi, ma se no è molto molto difficile. Nel Veneto poi è difficilissimo. Mentre sono venuti spesso e volentieri delle band di Brescia, hanno trovato un ambiente molto favorevole a Brescia. C'è proprio un'esplosione di band emergenti che trovano locali da suonare. Tu cosa ne dici, Francesco? Ecco, Brescia la conosco bene, perché io comunque sono di Verona, e Brescia è una città vicina. E ed è una bella piazza per i gruppi emergenti, però è l'unica della Lombardia, perché secondo me, perché già a Milano le band che fanno musica propria hanno pochissimi spazi, ne trovano di più a Brescia, per esempio. Certo, è vero questo. Quindi c'è la difficoltà, esiste, c'è poco. La difficoltà esiste in tutta Italia per le band che propongono musica propria, però bisogna insistere, cioè, bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti. Questa è una difficoltà, mi dicevano, però abbastanza limitata all'Italia, perché all'estero c'è un discorso leggermente differente. I gruppi emergenti non vengono accettati, suonano, trovano, chiaramente non so, le date si riescono a trovare, non con dei problemi, però quando suonano, non ci sono problemi. Ma credo che fondamentale la differenza mentalità, la mentalità esatto, a altri paesi, cioè qua proprio l'italiano difficilmente va a ascoltare gruppi emergenti o sconosciuti, cioè se c'è il nome di richiamo, per l'amor di Dio, Vasco, Liga, eccetera. Si prendono anche la giornata di ferie. Certo, questo è vero. Ma se ci sono i Fata, non si prendono la giornata di ferie. Non si prendono la giornata di ferie, tante volte che semmai passano davanti e non e si basta. Fermano. È brutto però. È questo che fa brutto. Certo, come certo. Si dice dalle nostre parti. Sì, perché tutta la gente fa, cioè, voi avete fatto una certa fatica per fare l'album, per comporre, per suonare, eccetera. C'è fatica sì, ricompensata, che l'album, che esce un album è una cosa meravigliosa, però ci vuole un po' di considerazione qualche volta. Beh sì, cioè, innanzitutto, cioè, noi suoniamo per piacere nostro personale, per poter dire cose, per trovare una valvola di sfogo. Certo. Poi si è inteso che è bellissimo girare, avere persone che, come diciamo noi, perdono del proprio tempo per venirci ad ascoltare, per seguirci, per venirci a vedere dal vivo, tant'è che poi diventano amici, cioè non sono neanche più fans, cioè. Giustissimo. Abbiamo fatto sentire 5 pezzi dal disco, mi pare. Sì. Possiamo farne sentire anche un sesto, cosa dici? Sì. Che si tratta di Visione Moderna. Visione moderna. Ok, sentiamo allora. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stiamo conversando piacevolmente con i Fatta, sono le 23.35, questo è Rock Wave, io sono Maurizio Calzavare, in regia c'è Michele Toson. Parliamo un momento della copertina, del grafico che ha curato la copertina. Chi vuole parlare del grafico? No, noi collaboriamo con questa persona e ne approfittiamo per salutarla, Gregor Fulmine, come per anche i nostri video. E anche per le grafiche abbiamo alcune persone che se ne occupano, abbiamo una mano praticamente, esatto, e, anche il libretto ha fatto tutto lui praticamente. Sì, che fanno parte della Disintegration. Che cos'è la Disintegration? È un'associazione. Un'associazione di ragazzi che fanno queste cose, esatto, un'associazione di idee, di ragazzi, di persone, gli elementi. Alberto, mi ha un sacco di gente vi ha scritto in dialetto veneto. Ah, in dialetto veneto. Ho già capito perché. Allora, c'è una domanda, volevo chiedere al tastierista quanto hanno inciso i suoi classici, in particolare Mozart, nella stesura dei brani. Senza questo film, questo non viene dal Veneto. Dai, devi rispondere. Mozart è stato è fondamentale nella mia formazione. E direi di eclissare questo. La risposta è fondamentale. Andiamo oltre. E Leonora, ce li facciamo anche a piedi chilometri pur di vedervi e sentirvi. Beh, grazie. Poi da Vicenza con amore, Ilenia e Enza, grandi Fatta, ci fate sognare. Grandi voi che ci state ascoltando. E ricordatevi che il Veneto vi ama tanto, è vostra Lisa e Miriam. grazie anche a voi. Quindi Veneto vi ama. Veneto ci ama e noi amiamo il Veneto decisamente. Benissimo, una cosa molto positiva. Allora, ritornando al discorso, dimmi. No, parlavo un attimo dopo. Mozart me lo spiegano. No, meglio lasciare perdere. Insieme ai bicipiti. Parlavamo della Disintegration. Parliamo di quella, dai, un secondo. Questa è un'associazione di ragazzi. Sì, questa collaborazione che è nata, ci siamo piaciuti un po' a vicenda in realtà. E loro si occupano appunto di videomaking, di grafica, di queste cose. Ci hanno trovato, penso, su internet, giusto? Che sì, i contatti li tengono loro su Facebook. E niente, è partita questa sperimentazione che a noi è piaciuta molto, ci sembra fortunata, siamo stati molto contenti del loro lavoro. Anche il video di cui parlavamo prima, di Venere d'Oro, certo, che ha anticipato il disco, è stato curato da loro. Bene. E anche quello di Non sono io, che è il singolo appunto che... Quindi ci sarà una collaborazione continua con loro. Noi ci auguriamo di sì. Bene, questa è una cosa molto positiva. Ok, sono le 23.38, adesso dobbiamo suonare un pezzo, cosa dite? Speriamo. Ah sì? Suoniamo Ermetica. Perfetto. Sento il bisogno di qualcosa di vero per non perdere il contatto con la realtà, per non confondere la mia razionalità con una distesa di fiori appassiti. We are dancing in this life. We are dancing, we are dancing in this life. Sono solo sentimenti alla deriva, indelebili tracce cerco in un secondo di raggiungere la felicità per perdere il contatto con la realtà, per avere sulla pelle un fondo di verità con la leggerezza di chi sogna ancora. Questo era un pezzo molto bello, molto bello. Le tastiere, la chitarra di Federico che arpeggiava lentamente, la voce di Roberto più la batteria di Milo, mi ricordo mai. È tutto un bel quadro, un quadro avvolgente, delicato, ma un po' drammatico anche, un po' tenebroso. Cosa dici? In linea con il linea resto, col con disco, però è molto bello, molto, molto positivo. E va benissimo a quest'ora, sono le 23:43, quindi va in perfetta sintonia. Siamo dimenticati di suggerire a casa di abbassare un po' le luci. È vero, è vero. Ha una certa sensazione, decisamente un pezzo molto bello. Scrive un critico: ermetica, ha un forte appeal, lunghe agonie di chitarre che fanno sognare. Poco radiofonico, ma davvero notevole, ha scritto un critico. Siamo contenti. È poco radiofonico per Rockwave, sì, non si sorpassa, non esiste. E Rockway e basta, quindi questo è il vostro pezzo, l'avete sviluppato in questa maniera. Questa è una versione direi molto minimale, molto minimale, comunque diversa dalla versione che è su disco, molto diversa. Ma non c'è il punk anche sul disco, no, assolutamente. No, no. No, però, però dal vivo la sostanza è quella, comunque la sensazione è detta in modo diverso e comunque quella, in questo modo vengono ulteriormente valorizzate le parole. Ermetica è il pezzo numero 8. È il numero 8, stiamo Ermetica 9. No, è il 9, 9, 9, 9, okay. 9. Cioè, stiamo verso la conclusione del disco, dopo ci sarà una bellissima conclusione che farete dal vivo. È a un certo senso Ermetica la traccia numero 9, perché la numero 10 è una grande ballata, come ho scritto io, decadente, secondo me. Cioè, abbiamo fatto la recensione, abbiamo interpretata in questa maniera. Quindi la traccia numero 9, il pezzo numero 9 messo in quella posizione non è a caso, secondo me. Ma cosa dici? È a caso? In questo disco c'è poco a caso. Vedi che c'è poco a caso. Veramente, veramente, veramente poco. È fatto volutamente così. Cioè, ogni traccia ha una precisa quasi un concept. Non è stato pensato in quel senso, però è diventato tutto, tutto concetto, a partire dalla grafica, dal fulmine che divide in due la copertina, dal significato del titolo, dall'apertura del brano diviso due, alla chiusura del disco. Certo, che è meravigliosa la chiusura, come si è detto sentiremo più tardi verso la fine del programma. L'apertura e la chiusura è una certa ha un senso compiuto, è un concept. I concept non esistono più, esistono raramente, però stasera esistono per i Fata, quello è positivo, assolutamente. Sono le 23.45, abbiamo circa un quarto d'ora per concludere, dobbiamo scegliere un altro pezzo dal disco stavolta. La traccia numero mi pare 7. La 7, che è praticamente l'essenziale. Cosa dite? Ne parliamo dopo, lo sentiamo prima? Ok. Dinamica Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo due messaggi, sono appena arrivati, che ci ha portato Alberto. Modena vi ama, orgogliosi di voi come sempre, grazie di esistere, Giuliette, Elisa e Nicoletta. Beh, e poi la cosa che abbiamo detto prima. Il sindaco e gli assessori, no. Modena vi ama. E poi una cosa che abbiamo citata prima, i Fata sono dei fighi. Saluto dalle presidentesse del nascente fan club, Eleonora e Nicoletta. Queste sono pagate. Sono decisamente pagate. Ok, ci vedrò bene. Bene, bene. Sono scatenate stasera, se può fare. Perché non siamo a casa. Vai Giuseppe, allora. Sono Francesco. È Francesco, no Giuseppe. Dimmi cosa devi dire, una roba importante. Volevo aggiungere che il CD De Fata potete trovarlo anche sul sito del nostra etichetta discografica Epic and Fantasy, che il sito è www.epicandfantasy.it. Siamo oltre etichetta discografica indipendente, siamo anche associazione culturale non profit e apolitica, e organizziamo anche vari concerti, ci occupiamo di booking per le band emergenti e organizziamo anche scambi culturali con band di altri paesi europei. È una cosa molto positiva questa, una bella iniziativa, sempre parte tutto da Carpi praticamente. No, non parlo. Ah, noi siamo base di Verona, però loro sono di Carpi, penso, c'è un collegamento. Collaboriamo con tanti enti, tanti gruppi italiani, insomma. Quindi oltre ai Fata, cosa avete di gruppi emergenti? Poi ci dai qualcuno? Come etichetta discografica, che è nata da poco, abbiamo fatto uscire a novembre scorso il CD del gruppo Love in Elevator, che sono di Venezia. Sì, certo, esatto. Anche lì abbiamo molti riscontri positivi e stiamo tuttora, la promozione è in attività. Bene, bene. Adesso sono i Fata. Adesso i Fata. Alla grande, praticamente. No. Lanceremo tutta Italia e spero anche all'estero. Decisamente. All'estero è una cosa positiva, infatti. Andare all'estero sarebbe mica male. Cosa dite? Adesso ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Quali sono i progetti futuri? Impossibili. Abbiamo insomma il progetto di fare delle versioni in inglese di alcuni brani del disco. Però mi dicevi a microfono spento che cantare in italiano è difficile, poi è bello, e cantare in inglese è più facile, però fare la traduzione sarà. Sì, in generale. Avviene un adattamento, insomma, l'importante penso che sia mantenere comunque la sostanza, poi è chiaro che sono due lingue completamente diverse. L'italiano è una lingua che io amo particolarmente e che mi consente di esprimermi al 100%. La mia limitata conoscenza dell'inglese non mi permetterebbe di muovermi nello stesso modo, quindi le cose rischierebbero di diventare banali. La stessa cosa la si può dire in tanti modi diversi, cioè io mi diverto sfruttando l'italiano per quello che insomma per riuscire a dire quella cosa creando delle immagini, Hai detto una cosa giusta, l'adattamento è difficile chiaramente, portare certi concetti in inglese, non so. Sì, pari è praticamente impossibile. Poi comunque noi ci stiamo lavorando, ci stiamo facendo aiutare da persone decisamente più competenti di noi, però è un progetto che è in cantiere. Certo, quindi io ricordo che molte band che sono venute qua hanno tentato giustamente di andare all'estero, soprattutto in Germania, in Olanda, hanno trovato di buoni riscontri. Cosa dici Francesco? Possibile? Possibilissimo, però secondo me poi ci sono dei paesi che non serve che il Fata escano, rifacciano il disco cantato in inglese, secondo me anche con l'italiano si può arrivare a determinati stati, come potrebbe essere il Giappone o la Russia. Sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo. Quindi vedremo fra qualche mese dove riusciremo a arrivare. Giustamente, come tu hai detto, altre band che sono venute qua hanno proposto i loro pezzi in italiano o nella lingua in cui avevano proposto, cioè non hanno cambiato nulla, li hanno proposti come dovevano essere proposti e la gente li ha seguiti lo stesso, anche se molti chiaramente non capiscono l'italiano. Certo. Ma non è capire l'italiano, è il senso, il trasporto, cosa dici Roberto, è il modo di interpretare le cose. Quello sicuramente è fondamentale e ci sono alcuni paesi che sono predisposti anche alla lingua italiana, lo sono stati anche in passato negli anni 80, per gli stessi Led FIBA hanno fatto dei tour francesi e spagnoli. E avere la versione in inglese ti può aprire comunque altre porte e quindi non tipo anche in Germania, la Germania stessa. Sì, la Germania stessa, soprattutto la Germania stessa. Ok, e abbiamo finito, sono 23:55. Sì, abbiamo finito questa nostra bellissima cavalcata. Prima di terminare, però, dovete spiegare questo bellissimo pezzo che adesso interpretate, che è l'ultima traccia del disco. Io ho scritto una ballata romantica un po' oscura, però una ballad un po' particolare, ma decisamente molto affascinante, che chiude in modo degno il disco. Insomma, la spiegate, abbiamo 30 secondi per spiegarla ampiamente, anche 40. Dai. Beh, il brano si intitola innanzitutto Quando le luci si spengono, e come chiusura direi che è ideale. È ideale, ed è insomma un po' il rifugiarsi, la paura di se stessi, un po' del fatto di andare oltre l'apparire, di trovare in una persona qualcosa di oltre il quale non si può immaginare nient'altro. Quindi si parla sempre di un certo tipo di sentimento che, ahimè, non è moderno, è un certo tipo di valori, un certo tipo di intensità in questo sentimento, e quindi insomma si parla di quello, dell'insicurezza propria della semplicità, della semplice bellezza che ci può essere nel regalare una rosa a una persona. Certo, grazie ai Fada, quindi Roberto alla voce, Brando alle tastiere, Milo alla batteria e Federico alla chitarra. Grazie anche a Francesco che è il produttore, che è il manager. Terminiamo con un pezzo meraviglioso, abbiamo finito Rock Wave, domani ci sentiamo con un'altra trasmissione live alle ore 21 con Agostino, ci sarà Cristina De Leone che verrà a presentare il disco nuovo da Torino, una cantautrice torinese. Grazie di fatta, buonanotte a tutti e grazie chiaramente a Michele Tosoni del G. Vestirmi, di non scoprirmi, per evadere dal giudizio e dall'incomprensione, dall'omologazione. Ho bisogno di estremizzarmi, sostituirmi, per accarezzare le illusioni e quello che non ho e non avrò mai. Ma ora che vedo in te tutto ciò che è possibile immaginare, e ora che sei per me tutto ciò che è possibile immaginare. Vedere, di farmi vedere, di scoprire cosa sono quando le luci si spengono e cala il sipario. Ma ora che vedo in te tutto ciò che è possibile immaginare, e ora che sei per me tutto ciò che è possibile immaginare, cos'altro ora potrei immaginare, cos'altro ora potrei immaginare, immaginare, cos'altro ora potrei immaginare, cos'altro ora potrei immaginare. immaginare, immaginare cos'altro ora potrei immaginare. Sono le 23 e 59 minuti.